un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera andiamo a Roma e ci andiamo col motorino o in metropolitana in compagnia di due giovanissimi studiosi col gusto della scrittura, Angela Bubba, classe 1989, e Giorgio Ghiotti, classe 1994, che insieme si sono dedicati a una singolare ricognizione sui luoghi dei grandi scrittori del Novecento che vissero a Roma. Ne è uscita una sorta di guida sentimentale letteraria della città che si intitola Via degli Angeli, pubblicata da Piani, 238 pagine, 13 euro. Come osserva Sandra Pettrignani nella prefazione, Roma non è troppo generosa con i suoi letterati. Il Roma, scrive, è dimentica e dispersiva. Roma macina e distrugge se stessa, la propria gloria, il presente e il passato. Cercare targhe commemorative in giro per Roma è un'impresa folle e coraggiosa, ancora più folle, aggiunge, mettersi a fermare i suoi abitanti, interrompendone la corsa quotidiana per chiedere: lei si ricorda per caso di una scrittrice che ha abitato qui? E proprio questo hanno fatto i due autori. Si sono messi sulle tracce di alcuni tra i maggiori scrittori del Novecento che a Roma avevano vissuto e ne hanno cercato la testimonianza, a partire da quelli immobiliari che appunto all'estero sarebbero ricordate con targhe marmoree di cui qua invece si fatica a trovare traccia. Ma Angela e Giorgio non si sono mai dati per vinto e adesso ci raccontano i frutti delle loro spesso frustranti passeggiate romane. Buonasera ad Angela Bubba e Giorgio Ghiotti. Buonasera. Buonasera. Angela Bubba e Giorgio Ghiotti, allora come cominciamo? Come vi siete divisi il lavoro per scrivere questo libro? Chi mi risponde? Giorgio? Sì, va benissimo. Ma noi ci siamo in realtà divisi il lavoro con una vera e propria divisione poi degli autori coinvolti. Sono tutti scrittori e poeti italiani del secondo Novecento, nessuno è più vivo appunto e attivo a Roma, però sono tutti caratterizzati appunto dalla scelta o per nascita o appunto come dicevo per elezione della città di Roma come città in cui hanno abitato, in cui hanno deciso poi di stabilirsi. Ci siamo divisi questi autori in realtà anche seguendo un istinto, una procedura sentimentale più che altro. Sono tutti grandi nomi della letteratura, molto, molto conosciuti. Ci sta Elsa Morante, ci sta Anna Maria Ortese, Moravia, Sandro Penna, ce ne sono veramente tanti. E noi abbiamo cercato appunto di fare questa cosa qui, cioè di raccogliere la memoria popolare su Roma di quei personaggi della quotidianità che hanno avuto a che fare con questi grandi nomi, dal macellaio di Gianni Rodari alla sarta di Elsa Morante, ecco, questi qui per ottenere un ritratto il più possibile fedele e autentico di questi grandi nomi, per restituirli poi ai lettori più che in qualità di scrittori e poeti, in qualità di persone. Angela, nella sua prefazione Sandra Pettrignani loda la vostra sfrontatezza. Bisogna essere sfrontati per evocare le glorie letterarie ai propri concittadini? Sfrontati non lo so, però coraggiosi sì, coraggiosi anche per saper guardare oltre l'aura appunto del personaggio, in questo caso dello scrittore. Questo è stato un po' il presupposto che ha guidato sia me che Giorgio, cioè andare al di là del solito ritratto che un critico o un altro scrittore o un artista o qualcun altro di addetto ai lavori poteva fornire. A noi in realtà interessava il dietro le quinte appunto dell'aura. E posso fare qualche esempio, per esempio la nota timidezza o superbia, dipende da dove la si vuole vedere, di Gadda. Noi siamo andati a trovare gli esempi proprio pratici di questa disarmante appunto timidezza, che addirittura non gli consentiva neanche di poter prendere un ascensore insieme ad altre persone. Siamo andati appunto a trovare tanti altri di questi aneddoti e, direi anche con molta umiltà, forse Sandra appunto ha giocato un po' su questi due estremi che poi insomma in questo libro si equivalgono e che si fondano tutti sull'interesse di una memoria popolare, quindi in questo senso anche molto bassa, tra virgolette, cioè molto umile. Giorgio, voi scrivete nel libro che una coppia improbabile era formata appunto da Gadda e da Parise, però i suoi ex o mancati o vecchi vicini di casa di Parise lo hanno confuso anche con Ether Parisi. Sì, ma questo è stato uno degli incontri di fatto più divertenti e ce ne sono tanti ovviamente. La memoria voglio dire, è infedele, è sempre infedele e aggiunge sempre qualcosa inventatoli, totalmente inventatoli, sana pianta. Non so, ad esempio posso raccontarvi di quando siamo andati ed Angela appunto a Monteverde Vecchio sulle tracce di Gianni Rodari. Chiedendo a qualcuno, lei si ricorda di Gianni Rodari, abbiamo più volte avuto le risposte come no, assolutamente non ho idea di chi fosse Gianni Rodari. Poi magari nominavamo Alice Casperina, appunto Giovannino Perdigiorno, e subito ritornava come un vento grande, no, appunto da una finestra, l'infanzia di queste persone attraverso i personaggi di questi scrittori. Gli scrittori sono quelli che hanno scritto, sono quello che hanno scritto, i loro libri, le loro idee, le loro parole, e quelle parole appunto degli scrittori sono andate poi ad arricchire degli immaginari che sono non solo infantili, appunto come nel caso di Rodari, ma anche degli immaginari già adulti, in alcuni casi anche degli immaginari abbastanza anziani, per così dire. E sono le storie che hanno raccontato, ecco, sono esattamente questo gli scrittori, per questo bisognerebbe leggerli tanto e poi magari no, risalire appunto a tutta quella vicenda straordinaria di affinità umane, delettive, che si nasconde dietro le loro opere, come il caso di Amelia Rostelli e di Dario Bellezza, che vivevano inizialmente insieme nella stessa casa a Lungotevere Sanzio, e poi però si divisero dopo un brusco litigio perché Dario Bellezza portava a casa i suoi ragazzetti con i quali aveva rapporti sessuali continui, e Amelia Rostelli diceva in continuazione: Dario, non ce la faccio più perché devo anche scrivere, lo buttò fuori di casa, e lui allora per ripicca e anche per prendersi una rivincita scrisse Inventi le licenze, che è un libro per tre quarti scritto contro Amelia Rostelli, ecco. Avete trovato anche dei cultori degli autori di cui cercavate le tracce, Angela, per esempio il Samorante? Sì, però a me in realtà il cultore più grande che ho incontrato, stiamo parlando sempre di Gaddo, però sì. Così è stato appunto questo signore che io ho incontrato, proprio stavo per andarmene perché non si materializzava nessuno, non avevo avuto ancora nessuna epifania appunto gironzolando intorno alla casa di Gadda, stavo per andarmene quando appunto è arrivato questo signore, ha aperto il portone e io ho chiesto a lui se ricordasse qualcosa su Gadda. Lui mi disse che, mi raccontò tutta la sua vicenda intorno a questo autore, e mi disse che addirittura ha dovuto portare avanti una vera e propria battaglia col comune di Roma per poter far affiggere una targa che poi è stata affissa non fuori ma addirittura dentro, per tutta una serie di motivi, regolamentazioni eccetera. Non solo mi ha detto questo, mi ha detto che lui era uno studente di ingegneria, e durante appunto la sua giovinezza aveva anche modo di ricevere delle lezioni da Gadda, che era appunto un ingegnere come tutti ricordiamo, e tutta una serie di cose. Ecco, questo è stato veramente la persona che casualmente appunto è piombata durante la mia ricerca, che si è rivelata essere uno scrigno immenso su questo grande autore. Guido, lei che è di nascita romana, si riconosce nella descrizione che Gadda fa di Roma e che voi citate nel libro? Ma è una Roma ovviamente totalmente diversa, e se c'è rimasto qualcosa di simile ovviamente sono i luoghi, ecco, cioè sono i luoghi che evocano, sono degli angoli, dei particolari appunto, dei locali, non so, citati anche nei romanzi o nelle poesie di questi grandi autori. È una Roma sicuramente oggi più dimentica che in passato, delle personalità che l'hanno attraversata in quegli anni straordinari che vanno appunto dagli anni 50, 60, anche 70 appunto del Novecento. E in questo è molto diverso ad esempio Bologna, una città appunto che amo molto, dove mi trovo, e invece una grandissima attenzione per i poeti contemporanei, c'è una grandissima attenzione per questi personaggi. Roma è dimentica, Roma affigge le targhe, ma come già un qualcosa di morto, di dimenticato, le affigge quasi appunto per lasciare andare, per abbandonare. Le targhe non sono questo, come non sono questi libri appunto, bisognerebbe tenerseli vicino questi autori, no? I propri cari estinti, mi vorrebbe dire con Patrizia Cavalli. Io nomino sempre una poesia di Vivian Lamarck, che è un po' quello, rappresenta un po' lo spirito col quale abbiamo deciso di affrontare questo viaggio sentimentale appunto nella memoria letteraria di Roma. Questi versi di Vivian Lamarck dicono: siamo poeti, vogliateci bene da vivi di più, da morti di meno, che tanto non lo sapremo. Ecco, non so se non lo sapranno mai. Però sicuramente i poeti bisogna vederli bene, soprattutto finché sono in vita, perché se lo meritano semplicemente, perché danno vita attraverso i loro versi, regalano parole, regalano l'immaginario sono i punti di vista sul mondo, e più punti di vista si hanno sul mondo, più veramente, appunto, più vita si può fare entrare dalla propria porta. Però, Angela, come elemento di conforto, ricordiamo il carabiniere di Campo Marzio, di origine milanese, che a un certo punto dice: uno scrittore è sempre una cosa bella. Beh, sì, questo è un incontro che ha, diciamo, registrato da Giorgio, però appunto applicabile per qualsiasi scrittore morto che vivo. E per me è stata una cosa molto molto bella. Anche ricordo quando Giorgio me l'ha raccontata al telefono, sono stata entusiasta, però mi ha fatto anche riflettere, anche Giorgio ci ha riflettuto sul fatto che appunto di fronte a questa parola la gente in pochi secondi sviluppa quasi una sorta di reverenza, no? Tant'è vero che il carabiniere con Giorgio inizia col dargli del tu. Appena Giorgio appunto dice di essere uno scrittore, cambia subito e gli dà del lei. Anche su questo secondo me bisognerebbe riflettere, no? Cioè si vede lo scrittore sempre come qualcosa quasi da trattare con i guanti. Al contrario, noi in questo libro i guanti ce li siamo tolti perché volevamo vedere appunto com'era la quotidianità di questi scrittori, e ci augureremo anche, anch'io mi augurerei appunto di essere vista nelle azioni di tutti i giorni. E questa appunto è stata un po' la base, insomma, l'anima di Via degli Angeli. Grazie ad Angela Bubba e Giorgio Ghiotti, che insieme hanno scritto appunto Via degli Angeli. Buona serata. Grazie a voi. Grazie a voi. Due pesi massimi della letteratura e della Roma di quegli anni, cioè Alberto Moravia e Goffredo Parise, troviamo nel libro di Marina Ripa di Meana, nata Punturieri, poi maritata Lante della Rovere, oggi appunto Ripa di Meana. Il libro si intitola Colazione al Grand Hotel, Moravia, Parise, la mia Roma perduta, è pubblicato da Mondadori, 142 pagine, 18 euro. A metà degli anni 70 l'autrice è costretta a lasciare la villa che occupava, a un certo punto si insedia al Grand Hotel di Roma, la signora non ha una lira in tasca, ma la sistemazione in quell'albergo offerta da un fidanzato facoltoso le consentirà di vivere come una miliardaria, come scrive l'autrice stessa. Ma Marina lì aveva bisogno di compagnia e le fecero da cavalieri serventi o da dioscuri, come scrive lei stessa, appunto Parise e Moravia, che ovviamente troviamo anche nel libro di Bubba e Ghiotti, e i tre si erano dati una consegna: mai parlare di letteratura. E infatti, come spiega l'autrice, ad Alberto e Goffredo piaceva sentirmi raccontare delle mie avventure, dei miei amori, dei segreti piccanti delle signore che frequentavano il mio atelier d'alta moda, oppure ridere delle rotondità e dei crucci sentimentali di qualche matrona e romana. I due poi sarebbero stati anche testimoni delle nozze successive di Marina. Ne emerge dal libro un quadro svagato e divertente di quella Roma nella quale pettegolezzi ed alta letteratura andavano a braccetto, e di quella Roma prendiamo qui particolari spesso davvero significativi di quel clima, di quell'ambiente, per esempio le operazioni finanziarie dei vari protagonisti, che passano non da un raffinato broker come ci immagineremmo oggi, magari appartenente a qualche altolocato studio anglosassone, ma da Otello, il quale viene così presentato da Marina Lante della Rovere come il suo consulente finanziario. Otello, il re dei giornalai, il padrone dell'edicola di Piazza di Spagna, angolo via Bergognona. Otello, dice Marina, è il centro del mio sistema finanziario, è meglio di un mago della finanza, di una banca di Zurigo. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci sentiamo fra pochi istanti. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure Terroni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Si è conclusa da pochi giorni su La F, una serie televisiva che aveva già avuto un enorme successo in Gran Bretagna, Victoria, che racconta la vita della longeva regina inglese, poi imperatrice. Vittoria, appunto, più che una monarca, fu un autentico simbolo di un regno, di una società, di un'epoca che non a caso si chiama ancora vittoriana. E di quel mondo troviamo un catalogo esauriente nel libro di Franco Pezzini, Victoriana, maschere, miti, demoni e dei del mondo vittoriano. vittoriana, è pubblicato da Odoia, 444 pagine, 24 euro, Pezzino, un esperto di cinema, in particolare studioso dei rapporti tra letteratura, cinema e antropologia, e qui a pane per i suoi denti, se ricordiamo che la letteratura dell'era vittoriana diede grande spazio al fantastico e anche al noir. Pensiamo per esempio all'autrice dalla quale si parte in questo libro ricco di illustrazioni, ossia Maria Shelley, la creatrice di Frankenstein. Ma vittoriani sono anche Lewis Carroll e Conan Doyle, per esempio, e a quel clima si ispireranno tante opere e tanti film di epoca successiva che qua troviamo tutti segnalati. Un quadro della letteratura vittoriana troviamo invece nelle pagine di un autore più volte evocato nel libro di Pezzini, ossia G.K., che sta per Gilbert Keith Chesterton, che visse anch'egli sotto la regina Vittoria e che fu uno dei più grandi scrittori dell'epoca, famoso come principe del paradosso. Di Chesterton esce L'età vittoriana nella letteratura, pubblicata da Adelphi, 212 pagine, 14 euro, tradotto da Paolo Di Leonardo. Il libro qua ci dà un quadro organico di quel periodo che Chesterton esamina raggruppando gli autori per scuole e correnti di pensiero, che gli spiega con la consueta dose di ironia ed eccentricità. Per esempio Chesterton spiega l'infatuazione dei romantici inglesi per la rivoluzione francese e dice così: questa tendenza dei romantici inglesi a serbare fede all'idea rivoluzionaria non con atti selvaggi ma con parole molto sfrenate ebbe varie conseguenze, la più importante delle quali fu la seguente. La letteratura inglese successiva alla rivoluzione prese le mosse da una sorta di propensione all'indipendenza e all'eccentricità che negli ingegni più brillanti divenne individualità e in quelli più spenti individualismo. I romantici inglesi, i liberali inglesi non furono uomini pubblici che diedero vita a una repubblica, ma poeti, ognuno con la propria visione. La versione più solitaria della libertà fu in Byron e Shelley una sorta di anarchismo aristocratico, ma per quanto nel periodo vittoriano essa sfumasse in pregiudizi molto più blandi e in puntigli molto più borghesi, l'Inghilterra serbò di quella propensione una bizzarra forma di separatezza e riserbo. Divenne molto più isola di quanto non fosse mai stata. Da allora in poi rinunciò a capire non soltanto la Francia e la Germania, ma anche, e con conseguenze disastrose, durature e tuttora persistenti, l'Irlanda. Parlando di Dickens, spiega, lo speciale splendido compito di Dickens fu quello di presentarci persone che sarebbero state del tutto incredibili se egli non ci avesse raccontato tante verità sul loro conto. Per contro, lo speciale non meno splendido compito di Thackeray fu quello di presentarci persone che conoscevamo già. E Chesterton conclude con un'osservazione su un tema che gli stava molto a cuore, la religione, e osserva come l'epoca vittoriana abbia avuto anche in questo ambito un effetto molto importante, in questo caso addirittura nefasto. Scrive infatti: il grande razionalismo vittoriano è riuscito ad arrecare un danno alla religione. Le ha arrecato forse il peggior danno possibile, l'ha completamente assoggettata al potere delle persone religiose. E anche l'affermazione di Darwin non fu esente da conseguenze aberranti, che così Chesterton descrive. Essa fu, ed è ancora, vagamente associata alla negazione della religione, ma, e questo è l'essenziale, fu anche associata alla negazione della democrazia. La stessa ottusità che nella media età vittoriana indusse la gente a credere che l'evoluzione comportasse l'impossibilità di ammettere la supremazia di Dio, la indusse anche a pensare che la sopravvivenza del più forte comportasse la necessità di ammettere la supremazia degli uomini. E nonostante gli sforzi dello stesso Darwin, aggiunge sotto l'urto del darwinismo, quanto c'era di buono nel razionalismo vittoriano tremolò e si dissolse come polvere. Quanto c'era di cattivo rimase e si condensò come argilla. La magnifica emancipazione evaporò, il calcolo meschino restò e la religione e la politica furono bandite da tutti i circoli di discussione della tarda età vittoriana, compreso quello di Westminster. Insomma, Chesterton conclude con un'analisi spietata sulla discutibile eredità del periodo vittoriano, di cui egli vide il superamento definitivo nella figura di Kipling. Chesterton fu protagonista di un passaggio clamoroso, quello al cattolicesimo. religione alla quale si convertì quasi cinquantenne nel 1922. Fu una conversione che fece epoca per la notorietà e la forza polemica del personaggio, che lo rese ovviamente molto popolare agli occhi della gerarchia cattolica, tanto che l'allora cardinale Bergoglio approvò, appena 3 giorni prima di essere eletto papa, una preghiera nella quale si prega Dio perché la santità di Chesterton possa essere riconosciuta da tutti e la Chiesa possa proclamarlo beato. Questa preghiera proprio apre il libro che adesso vi presento, che si intitola L'uomo che non fu giovedì, un titolo che parafrasa il titolo di uno dei più famosi libri di Chesterton, L'uomo che fu giovedì. L'autore è un colombiano, Juan Esteban Constain, che è scrittore, giornalista, docente, musicista, è pubblicato da Fazzi, 190 pagine, 16,50 euro, ed è tradotto da Andrea Rigato. Qui Constain racconta di un suo casuale coinvolgimento nella ricostruzione di un dossier che doveva servire appunto alla canonizzazione dello stesso Chesterton, un dossier che fu riaperto pochi anni fa alla vigilia della dimissione di Benedetto XVI, che fu a sua volta un grande simpatizzante di Chesterton e che troviamo nel libro sotto un aspetto insolito. Parlando del Papa emerito, infatti, l'autore scrive: «So bene che si tratta quasi di un'infamia, ma giuro che quando immagino la conversazione tra Benedetto XVI e un cardinale su questo tema, non riesco a evitare di vedere Benedetto XVI un po' come lo stregatto di Alice nel Paese delle Meraviglie, le sue scarpe di Prada, il suo pianoforte e il vino, che rideva e faceva domande». Il punto è che per diventare santi occorre fare o aver riconosciuto un miracolo, e qui il miracolo riguarderebbe un servizio reso da Chesterton alla Chiesa, sul quale calò poi il silenzio. La vicenda si intreccia col furto di documenti a opera del maggiordomo di Benedetto XVI. Tra le carte che appunto aveva sottratto questo signore ci sarebbero state anche quelle relative alla vicenda Chesterton. Insomma, si tratta di una specie di giallo vaticano che potrebbe aver scritto padre Brown, il prete investigatore creato appunto da Chesterton, il quale poi si dovrà accontentare della grande stima che nutre per lui il nuovo pontefice, il quale da giovane proprio su Chesterton aveva lavorato. Di Chesterton Lindau pubblica un libro particolarmente attuale, quasi premonitore, si chiama L'osteria volante, tradotto da Gian Dauli, 344 pagine, 24 euro, attuale perché si immagina che l'Islam abbia in pratica conquistato il mondo. Questo libro è del 1914, qui l'Inghilterra ha sostanzialmente capitolato all'Islam, almeno hanno capitolato le sue classi dirigenti a partire da quella degli intellettuali, e contro questa capitolazione si scaglia la satira di Chesterton, che fa del pub l'ultimo possibile avamposto di libertà. Si conclude questa settimana il mese delle STEM, ossia delle discipline relative a scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, che ha visto un'iniziativa del MIUR, del Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, per diffondere presso le ragazze lo studio di queste materie. Allora vi segnalo in questa occasione un ebook, Le ragazze con il pallino per la matematica, di Chiara Burberi e Luisa Pronzato, pubblicato da Libromania, 252 pagine, 2,99 euro, nel quale troviamo 100 donne protagoniste del mondo matematico e della scienza che si raccontano. E nella introduzione Nicola Palmarini fa riferimento al film uscito da poche settimane, Il diritto di contare, di Theodore Melfi, che racconta la storia di tre matematiche di colore che nel 1962 resero possibile alla NASA la spedizione allo spazio di John Glenn. I vari capitoli del libro presentano gli stralci di conversazione presentati come brevi racconti personali, e naturalmente il libro denuncia la scarsa presenza delle ragazze in queste discipline. Troviamo infatti scritto: ci hanno educato alla cura e alla perfezione, non alla competizione e all'esperimentazione, come invece avveniva e avviene ancora con i maschi, esortati sin da piccoli al coraggio e alla sfida. E concludono il libro un capitolo sui libri che fanno innamorare della matematica e sui film che fanno innamorare della matematica. E a chi voglia appassionare alla matematica segnalo un piccolo libro di uno dei più famosi matematici italiani, Giuseppe Peano, vissuto tra il 1858 e il 1932, di cui viene ripubblicato Problemi matematici antichissimi, giochi di aritmetica e quesiti interessanti, pubblicato dalle edizioni Clichy, 106 pagine, 12,90 euro. Questo libro del 25, nel quale Peano raccolse appunto alcuni giochi matematici per i bambini, al fine, scriveva, di rendere dilettevole e meno noiosa l'aritmetica. si parte dal quadrato magico fino a quesiti del tipo: dato l'altezza dell'albero maestro di una nave, trovare l'età del capitano. Rompicapo tutt'altro che insolubili, solo che si sperimentino metodo e riflessione. Piano si dichiara infatti convinto che se gli allievi non capiscono, il torto è dell'insegnante che non sa spiegare, e aggiunge: se l'insegnante tormenta i suoi alunni e invece di cattivarsi il loro amore eccita odio contro sé la scienza che insegna, non solo il suo insegnamento sarà negativo, ma il dover convivere con tanti piccoli nemici sarà per lui un continuo tormento. Insomma, un libro scritto per bambini, pensando ai suoi colleghi insegnanti, che tornerà utile a tutti. E a questo punto il confettino. Un capitolo dell'ebook che ho appena ricordato, quello di Chiara Burberi e Luisa Pronzato, è dedicato ai libri di matematica da leggere ai bambini. E segnalo anche un libro che ha avuto un enorme successo negli Stati Uniti, Ada la scienziata di Andrea Beatty, illustrato da David Roberts, pubblicato da De Agostini, 32 pagine, 14 euro 90, che vuole appunto motivare le ragazze al sapere scientifico e si ispira anche all'esperienza di scienziate famose come Maria Curie. Segnalo poi una nuova collana di Centro Studi Ericsson intitolata appunto STEM, che è rivolta a giovani lettori e lettrici che vogliono sperimentare e inventare. Il primo volume è Hal Ruby di Linda Lucas, che è una finlandese campione digitale del suo paese, che spiega qui il linguaggio dei computer e insegna soprattutto alle bambine come programmare, e che rende omaggio anche alla tradizione educativa di Maria Montessori. Il libro ha 112 pagine e costa 13,90 euro. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Valeria Bernardi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.